ho stipulato un patto con te, più che con il diavolo. Sogno te luciferina, incanta, rima. Nella mia mano fina trama, del mio dirti scusa in una lacrima. Rima, bestia, rima, dille amami. E piangi fino a ripulirti, anima mia, via. Caccia il tuo blu di un triste indaco e sprigiona il potere di un cuore. Ama splendore, colore divieni oltre, colore tingi tutta la corte. Dagli del tuo sogno il meglio, il buono, nutri le anime, anima mia. Non vi sia confine o nostalgia, lo portami da te. Dove porterei me, dove saremo io e te, sospesi oltre, contro, coltre di nubi nere. Respireremo forte, dammi la mano forte, più della parola morte. Amami come ami anima, guardandomi, rimirami in volo, come di un drago mi nutri, di sangue suo, mago di ogni bacio tuo. Con ago cucio cuore, non spezzarlo per favore. Debole ciò che fortificheresti in me, vesti me di orecchini per sentire. Respiri vini, serpi, sogni, fiori. Vorrei sdraiarmi fuori, disteso in petali d'allori. Stipulato un patto con te, più che con il diavolo. Sogno te luciferina, incanta rima, della mia mano fina trama, del mio dirti scusa in una lacrima. Debole ciò che fortificheresti in me, vesti me di orecchini per sentire. Respiri vini, serpi, sogni, fiori. Vorrei sdraiarmi fuori, disteso in petali d'allori. Di sangue suo, mago di ogni bacio tuo. Con ago cucio cuore, non spezzarlo per favore. Stipulato un patto con te, più che con il diavolo. Sogno te luciferina, incanta rima, della mia mano fina trama, del mio dirti scusa in una lacrima. Rima bestia, rima della... Debole ciò che fortificheresti in me, vesti me di orecchini per sentire. Respiri vini, serpi, sogni, fiori. Vorrei sdraiarmi fuori, disteso in petali d'allori. Ho stipulato un patto con te, più che con il diavolo. Sogno te luciferina, incanta rima, della mia mano fina trama, del mio dirti scusa in una lacrima.